Master Equation. Calcoliamo le Master Equation per un sistema a due livelli interagente col campo elettromagnetico. La Hamiltoniana H può essere scomposta con H0, il sistema a due livelli, più H' di T, interazione tra il campo e il sistema, più HRL, la Hamiltoniana relativa allo scattering. Per ora trascuriamo la Hamiltoniana relativa allo scattering HRL. H0, la Hamiltoniana di un sistema a due livelli, è una matrice 2x2 diagonale con autovalori E1 e 2, cioè in altre parole è la matrice E1, 0, 0 e 2. La Hamiltoniana H1, anch'essa una matrice 2x2, che è quella di interazione campo-sistema, cioè quella del momento magnetico mu. È data da meno il prodotto scalare tra mu ed E, il campo elettrico, ed è uguale a 0 meno mu E 0, con mu appartenente a R. Dall'equazione di Liouville sappiamo che IH tagliato dende T di ρ è uguale alla parentesi commutazione tra H e ρ, dove H è Hamiltoniana, H tagliato è la costante di Planck, fatto 2π greco, fatto 4π greco, ρ è la matrice densità, cioè la matrice Mn delle probabilità di stare su un determinato stato statistico. La matrice densità è quella formata fondamentalmente dalla probabilità delle popolazioni sulla diagonale e delle coerenze fuori diagonale. In ogni caso, definendo ρ come una matrice 2x2 Mn, dove M e N possono essere 1 o 2, essendo tutto ovviamente un sistema a due livelli, abbiamo tutte matrici 2x2, possiamo scomporre le parentesi commutazione HRO in H0RO, parentesi commutazione, più la parentesi commutazione H'RO, dato che H è uguale ad H0 più H'. Per le proprietà delle parentesi di commutazione. Calcoliamo quindi le parentesi di commutazione H0RO, cioè quelle relative al sistema a due livelli. H0RO meno RO H0. E facendo il prodotto riga per colonna otteniamo nel primo caso E1 RO 1 1, ed 1 RO 1 2, e 2 RO 2 1, e 2 RO 2 2. E nel secondo caso RO H0, RO 1 1 e 1, RO 1 2 e 2, e 1 RO 2 1, e 2 RO 2 2. Bisogna fare la differenza tra queste due matrici, la loro differenza da 0 RO 1 2, che moltiplica E1 meno E2, ρ2 1 che moltiplica E2 meno E1 e 0. Cioè una matrice che ha sulle diagonali 0 e sulle antidiagonali la coefficiente ρ1 2 e la differenza tra E1 meno 2 per il coefficiente 1 2 e la differenza E2 meno E1 per il coefficiente 2 1. Ora, definendo la frequenza omega 1, 2 come E1 meno E2 fratto H tagliato, otteniamo che appunto E1 meno E2 è uguale ad H tagliato omega 1, 2. Quindi, sostituendo e raccogliendo, otteniamo che le parentesi commutazione tra H0 e ρ sono uguali ad H tagliato omega 1, 2 per la matrice 2x2, 0 ρ 1 2 meno ρ 2 1 0. Ora calcoliamo anche le parentesi di commutazione tra ρ ed H' ed H' di t. Queste sono ρ H' di t, quindi il contrario dell'altra, che sarà semplicemente è opposta a quella che ci servirà. Allora, dobbiamo calcolare quindi rho h' di t, prodotto matrice riga per colonna, raccogliendo un μe uguale, otteniamo μe che moltiplica con un meno davanti, meno μe che moltiplica rho 1 2, rho 1 1, rho 2 2, rho 2 1. Mentre nel caso di h' di t rho, otteniamo sempre con meno μe davanti rho 2 1, rho 2 2, rho 1 1, rho 1 2. Facendo la differenza troviamo che sempre con μe raccolto da tutti e quattro i coefficienti della matrice 2x2, rho 2 1 meno rho 1 2, rho 2 2 meno rho 1 1, rho 1 1 meno rho 2 2 e rho 2 1 scusate, rho 1 2 meno rho 2 1. Ora, per trovare le equazioni di Liouville in campo quantistico, dobbiamo scrivere la somma, la differenza tra questi due risultati e porli uguale a i h tagliato de rho in dt. Da qui si ottiene che moltiplicando per i h tagliato, anzi dividendo ambo i membri per i h tagliato, darò in dt uguale a i su h tagliato per h tagliato omega 1 2 0 meno rho 1 2 rho 2 1 0 più i su h tagliato μe rho 2 1 meno rho 1 2 rho 2 2 meno rho 1 1 rho 1 1 meno rho 2 2 rho 1 2 meno rho 2 1. Sapendo che dalla meccanica statistica rho 1 2 uguale a rho 2 1 star, si ottengono quattro equazioni che in realtà saranno tre. Andiamo a vedere. L'equazione relativa al termine 1 1 è d rho 1 1 in dt uguale a i h tagliato μe rho 2 1 meno rho 1 2. L'equazione relativa a 1, 2 è d rho 1, 2 in dt uguale a meno i omega 1, 2 rho 1, 2 più i su h tagliato mu e rho 2, 2 meno rho 1, 1. L'equazione relativa a 2, 1 è la stessa, ma complessa coniugata dell'equazione rho 1, 2. Infatti è d rho 1, d rho 2 1 fra in dt è uguale a i omega 1 2 rho 2 1 più i su h tagliato mu e rho 1 1 meno rho 2 2. L'equazione relativa al coefficiente alla posizione 2 2 è d rho 2 2 in dt più uguale a i su h tagliato mu e per rho 1 2 meno rho 2 1. Ora, facendo la differenza tra la prima equazione e l'ultima, quindi 1, 1 e 2, 2, si ottiene che la derivata temporale di rho 1, 1 meno rho 2, 2 è uguale a 2 volte i su h tagliato mu scalare per rho 2, 1 meno rho 1, 2, definendo mu 1 su h tagliato mu scalare e 0 la frequenza di Rabi e stabilendo che il campo elettrico sia armonico, cioè scrivibile come E0 coseno di omega t, possiamo sostituire e semplificare l'equazione, ma lo vedremo dopo. Tanto abbiamo trovato la prima forma delle master equation, che è quella d in dt di rho 2 2 meno rho 1 1 uguale a i su h tagliato per 2 mu scalare per rho 1 2 meno rho 2 1, la prima. La seconda, d in dt di rho 2 1 uguale a i omega 2 1 rho 2 1 più i su h tagliato mu scalare rho 1 1 meno rho 2 2. Ora vogliamo fondamentalmente disaccoppiare queste due equazioni, o comunque scriverle meglio. Dicevamo, se il campo elettrico è un campo armonico, possiamo scriverlo come un campo armonico, cioè come E0 coseno di omega t, allora possiamo scrivere, cioè, in altre parole, scrivendo i numeri complessi, e alla i omega t più e alla meno i omega t fratto 2, possiamo anche pensare, ipotizzare, che il sistema sia vicino alla risonanza, il che significa che omega è molto simile a omega 2,1. E quindi rho 2,1 può essere scritto come sigma 2,1 dt e alla i omega t, e rho 1,2 come sigma 1,2 dt e alla meno i omega t, poiché rho 1,2 è il complesso è coniugato di rho 2,1. Allora anche sigma 2,1 è uguale al complesso coniugato di sigma 1,2, ovviamente. Sigma 2,1 di t è una funzione che varia poco nel tempo quando vicino alla risonanza. Ora possiamo sostituire l'interno delle master equation dicendo che den dt di rho 2,1 è uguale a den dt di sigma 2,1 di t per e alla i omega t per la proprietà delle derivate, che il prodotto delle derivate è la derivata della prima per la seconda più la derivata della seconda per la prima, otteniamo che è uguale a den dt di sigma 2,1 di t, fuori dalla parentesi e alla i omega t, più i omega sigma 2,1 di t e alla i omega t, dato che la derivata di e alla i omega t appunto è i omega e alla i omega t. Questa deve essere uguale per le master equation a i omega 2,1 sigma 2,1 e alla i omega t più i su h tagliato mu scalare E0 per e alla i omega t più e alla meno i omega t fratto 2 rho 1,1 meno rho 2,2. O, in altre parole, d sigma 2,1 in dt è uguale a meno i omega sigma 2,1 più i omega 2,1 sigma 2,1 più i su 2h tagliato mu scalare 0 rho 1,1 meno rho 2,2 per 1 più e alla meno 2 omega t, avendo cioè raccolto un e alla i omega t e avendolo semplificato ambo i membri. Ora, riconosciamo appunto in i su h tagliato mu scalare 0 la frequenza di Rabi omega grande. Ora, facciamo un'approssimazione. Trascuriamo il termine che dipende da e alla meno 2 omega t. Questo perché il contributo medio nel tempo di una funzione pari è nullo. Come possiamo ricordarci se abbiamo frequentato le lezioni di ottica non lineare e comunque sull'optics su qualche libro di optics di cui adesso non ricordo esattamente il nome, si possono comunque trovare spiegazioni più dettagliate. Pensiamo allora adesso all'altra equazione, quella in rho 2,2 meno rho 1,1. Sostituendo, otteniamo che la derivata temporale di rho 1,1 meno rho 2,2 è uguale a meno 2i su h tagliato mu scalare E0 e alla i omega t più e alla meno i omega t fratto 2 per, aperta parentesi, sigma 1,2 e alla meno i omega t meno sigma 2,1 e alla i omega t. Questa sarà uguale, moltiplicando, a meno i su h tagliato mu scalare 0, il 2 è stato semplificato con quello che veniva dal coseno, aperta parentesi, sigma 1,2 più sigma 1,2 e alla meno 2 i omega t, meno sigma 2,1 e alla 2 i omega t, meno sigma 2,1. I due termini che dipendono da 2 i e alla 2 i omega t e da e alla meno 2 i omega t vengono trascurati, sempre per lo stesso motivo per cui la funzione è pari e quindi nel tempo dà un contributo nullo. Quindi La derivata temporale di ρ11 meno ρ22 diventa meno i su h tagliato mu scalare 0 che moltiplica sigma 12 meno sigma 21. Ora abbiamo scritto le due equazioni in funzione, quindi nello specifico caso di funzione coerente, di campo elettrico coerente e vicino alla risonanza. Mu, in altre parole, attenzione che mu è il valore di aspettazione dell'operatore momento di dipolo. Mentre ρ11 meno ρ22 è la differenza di popolazione, cioè di probabilità di occupazione. Naturalmente, se vogliamo conoscere il valore medio del momento di dipolo in un insieme statistico di n sistemi, dobbiamo calcolare la sua media di ensemble, cioè la traccia del prodotto tra ρ e mu. Siccome in un sistema a due livelli ρ è una matrice 2x2, così come anche mu, dobbiamo fare il prodotto scalare tra ρ11, ρ12, ρ21, ρ22 e 0 mu mu 0, che dà mu raccolto, che moltiplica la matrice ρ12, ρ11, ρ22, ρ21. Ora dobbiamo farne la traccia che risulta essere mu ρ12 più mu ρ21. Il che significa che sostituendo il ρ, per come abbiamo trovato sopra, cioè che è uguale a sigma 1,2 di t e la meno i omega t. Nel caso di ρ12 e ρ21 è sigma 2,1 di t e alla i omega t, troviamo la polarizzazione macroscopica che non è altro che n fratto v per la media d'ensemble di mu, dove n è il numero di particelle e v è il volume che contiene questo numero di particelle. Quindi è uguale a n fratto v per mu, vettore, che moltiplica sigma 1,2 di t e alla meno i omega t più sigma 2,1 di t e alla i omega t. In un sistema che interagisce dovrò effettuare una media statistica. Se il sistema è incoerente, la relazione di fase tra gli atomi è causale e la polarizzazione macroscopica è uguale a 0, anche se in generale ρ11 meno ρ22 non è nullo. E quindi ci può essere una polarizzazione media. Ora, volendo, i termini di H-rel che abbiamo trascurato sono da aggiungere in maniera fenomenologica, che però porteranno le equazioni, possono portare le equazioni ottiche di Bloch e faremo nel prossimo capitolo. Le oscillazioni di Rabi, che vengono dalle frequenze di Rabi omega grande che abbiamo stabilito essere uguali a i su 1 su h tagliato mu scalare 0, portano appunto alle oscillazioni di Rabi, cioè l'evoluzione temporale pompata in risonanza. Dipende dal campo E0, cioè dall'intensità iniziale del campo elettrico che è stato introdotto nel sistema.